senza di te non si può vivere, senza di te neanche respirare, perché tu mi dai la gioia che non ho avuto mai. Vieni qui, vieni qui, non fermarti. Vieni qui, vieni qui, non pensare ad altro. Quando sei accanto a me, ogni cosa mi sembra vera, perché tu mi dai la gioia che non ho avuto mai. Vieni qui, vieni qui, non fermarti. Vieni qui, vieni qui, non pensare ad altro. Ti sento nel mio cuore, sei il sangue nelle mie vene, perché tu mi dai la gioia che non ho avuto mai. Vieni qui, vieni qui, non fermarti. Vieni qui, vieni qui, non pensare ad altro. Vieni qui, vieni qui, non fermarti. Vieni qui, vieni qui, non fermarti.